Buongiorno Gio Maria. Ciao Maria. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Attenzione signor Marchisio, Gio Mari, eccone qua, arrugidusi, sono già tre ore qua, buonasera Tungo, un po' rauco sono, evidentemente mi sono tolto le scarpe e sarotte. Andiamo male allora, andiamo. Avevo le babbucce. Stavi bozzo e i calzini stanotte. Non sento già altro nessuno. Ma si è sentito altro nessuno? No, c'è a Tonello poc'anzi fischiando, provando qualche radio, però non ci sono entrato, capito? Fatto bene. Vuol dire che stava provando l'apparato. Non l'ho voluto disturbare, forse stava provando. Io ho fischiato ma non mi ha risposto e allora non sono entrato, capito? Non ho detto niente. Oh, Bacchisio, è strano, beh, forse ancora sta mettendo la macchina in garage. Adesso è contento perché gli hanno aperto anche la strada. A proposito, è già aperta l'anno. Ma è una base mia, vi giuro, hanno fatto una parte per fare in fretta. Già, ho visto bene allora, è sfuggita, l'ho vista oggi, l'avevate a Rai 3, ce la faccio di fretta, ma in questo mese la deve inaugurare, no? No, è ancora, c'è l'altra parte da finire, hanno aperto una parte però per far circolare almeno le macchine, non potevano lasciarlo chiuso. Anzi, l'hanno aperta prima, 8 giorni prima. Ma sto dicendo, entro ottobre la inaugurano, penso io. No, al prossimo anno a finire tutto, perché devo fare la pista ciclabile anche, è compreso, marciapiede, e ce n'è cosa da fare prima di finirla tutta. D'altra parte, al prossimo anno a finire. Ah, così è. E capire. Io pensavo, no, perché le ho viste così, sfuggito, ma aperta l'hanno, non mi sembrava quella lì, capito? Invece c'era quella lì, e vabbè, almeno l'ho fatto tutto il giro come prima. Dall'altra parte hanno fatto in fretta a fare quella parte lì per poter far circolare le macchine, all'altra parte adesso quella dove salgono, quella la fanno con calma e tutto quanto, tutto quello che vuole fatto. Allora, qual è la parte fatta? Sulla destra scendendo o la sinistra scendendo? Allora, sulla destra scendendo quella che si scende per andare a Platamona, hai capito? Quella lì hanno finito. L'altra parte che si sale, quella la finiscono per il prossimo anno, perché c'è da fare marciapiede, c'è da fare tutto, pista ciclabile e tutto quanto. Ma quello che hanno finito è doppio senso, no? Sì, adesso è doppio senso, poi quando apriamo l'altra sarà solo a scendere. Quando finisco l'altra, magari adesso è più scorrevole, là. Poi quando sarà finita allora è più scorrevole ancora e il traffico è migliore, dai, almeno in estate quando la gente va tutta a Platamona a mare, e per cui mica è trafficata quella strada, per cui quando sono doppia corsia è già una cosa di buono. Infatti, perché quella parte lì ci va, devono fare anche quell'altra parte, su tutte e due le parti la pista ciclabile va, quindi fanno il coso di coso, marciapiede e tutto quanto ci va, e vanno messe sistemate le luci anche. E sarà tutto anche illuminato, sarà bella veramente quel pezzo, dai. Tanto sono 500 metri i giorni, sono 500 metri che devono farne. Mai a farlo in fretta, quei mesi che ci sono adesso, tanto ponti lì non ce ne sono, per cui a fare il pieno del terreno già a farlo in fretta. Il basamento è stato già fatto, c'è solo lì che devono continuare a fare i marciapiedi e tutto quanto, basamente è già fatto, ma devono fare soltanto pista ciclabile, marciapiede e chiudere i muri. Ho capito. Almeno uno che scende a Platamona in bicicletta da qua all'incrocio di Sorso va sulla pista ciclabile, così. Arriviamo a metà della pista ciclabile, è meglio non vederla. Sta la base di osso, è meglio non vederla. Perché ho visto sulla destra scendendo in la fara di Santo Michele, forse non è finita sulla destra, però c'era pista ciclabile lì. Sì, ma non si può passare, non si è vista, per carità, meglio non vederla, io l'ho vista e non serve. Ah, così, e allora è inutile, l'ha già rifatta, gatta. fanno, ma mi sembra che senz'altro sarà finita, magari dopo che fanno la strada, che finiscono la strada a mettere a posto la pista ciclabile fino a cosa, allo svincolo di Sorso, no? Sino allo svincolo di Sorso, però Ho tutta concia, a parte il giorno. A meno che non la aggiustano dopo. Sì, magari la finiranno dopo, dai. Adesso magari ci hanno pensato di fare le corsie per le macchine, perché il traffico è parecchio lì, capito? Sia l'estate che sia anche l'inverno, perché ormai è tutto abitato quel percorso, capito? Lo so, purtroppo. E così dovremmo mettere a posto un po', come stanno mettendo, facendo il muro a parte in giù anche. E vabbè, l'importante è che abbiamo un appunto. Attenzione, signor Marchisio! Non da va, non risponde. Sa cosa combinerebbe. Sai, da fatto come ieri sera. Che hai già fatto? Quello l'ha portato, era lui che lo stava uscendo 8 ieri sera. Me l'ha detto che era lui. Infatti, e noi pensavamo che fosse qualcun altro che si stava giocando. Invece a Marchisio che non stava uscendo. Però male doppio si è messo in riga. Vabbè. Si sta controllando che su coso che non anda. Andate. Io stamattina sono andato a vedere la lupa, ma ho fatto 50 andate e 50 torrà. È un po' lontanino, però già l'hai vista, così che la sarò bene, no? A voglia. Sono in quattro in tutto il giorno. Tre femmine e un maschio. Ah. Tu è la femmina, no? Sì, la femmina io c'ho, ma ne ho fatto uscire solo a lei, ho fatto uscire gli altri, io ho pulito il coso e da domani c'è il padrone suo che ha finito ieri di lavorare, quindi da domani c'è lui, c'è. Ah, così è. Ho capito. Vabbè. L'importante è che siano bene, che li trattino bene gli animali, capito? Quello che conta, vai. Ma oggi li devo trattare bene, perché sennò sono controllati. No, io voglio se li tratta bene, caspita. Almeno lui li tiene un 3 ore, si pulisce tutto quello che si deve pulire adesso, mettere a posto tutto quanto. Anche se c'era il fratello, però non è mettere un padrone. Il padrone ci tiene di più. Allora sei tornato subito? Sono stato lì 1 ora e mezza, sono stato lì. A mezzogiorno meno 10 son partito. Piano piano si ridurrà. Com'è la strada fino a Cosseino? Ce n'è un po' che è mezzo distrutta, tutta a Cosu, a Garrea, Barimagnata da Rigoso, da Rigamio, Barimagnata, vedo tutta canta con un vedo un pezzo. Poi ci sono dei punti che è nuova la strada. Tu pensavo un giorno. E allora, buonasera signor Marchisio, non è mangiata dei giuriti. Buonasera Tore, buonasera Giovania, vieni ascoltati tutti e due, avanti. Buonasera signor Marchisio. Allora signor Marchisio, molto hai lavorato oggi, sudato hai? Nulla, stasera non ho fatto nulla. Stasera, sabato sera non si fa niente. Almeno ti sei riposato un po', ma è giusto che sia così. Va benissimo, signor Macchini, riprenda. Sicuro, sicuro. Adesso sì. E oggi riposo, domani si lavora, lunedì si lavora. Domani iniziamo niente. Piano piano sto facendo. Ma il riposo dovrebbe essere la domenica, noi sabato. A rovescio la fai il riposo tu, signor Bacchì? Io sono campagnolo e il calendario non ne ho, capito? In campagna non c'è il calendario, no. Sapere quando è domenica, quando è lunedì, nulla. Quando uno è stanco si ferma e boom. Ah, che così già, va bene. Tranquilla allora, va benissimo, vai certo. Contento sei che ti hanno abbezzato una carriera. Oh, me non mi serve più questa carriera. Sono aperta, ma a me non mi serve più. A me non va bene con la strada, capito? Perché non c'è entrata verso di me. Quando fa di una sabbata andrà bene, ma no. Sì, ma quando fa di una sabbata non vi può entrare, anche lì. Devi fare tutto lo giro, la rotatoria. Sì, vado io la rotatoria, ma io entro nel suo che va. Prendo la strada vecchia e risparmio tempo e denaro. Infatti. Fai il giro della rotatoria, entri da qui da base, vedi l'officina e arrivi Roma a te. La sala dell'officina, la sala dell'officina. Vado poi nella rotatoria, l'entrata del Torino, poi ho visto e le sono messe a Sani, dalla cabina entro come ti entravamo sempre e altro nella rotatoria. Infatti, è così. È così. Secondo me tanda domani mattina ho una cappata. Ma è tanda bacchi. Adesso in campagna io via. Adesso in campagna dopo. E si può venire Gian Maria a Buru. Voi c'è anch'io, non c'è un problema, a me non andiamo a trovarlo in questa campagna di Bacchigi, vediamo tutto il lavoro che sta facendo. Ehi, scendete, sono in campagna, sono giù, io ci sono sempre, da qui, poi già sono la strada, non ho dimenticato di me. No, tanto devo entrare dalla base di officina, devo entrare, così è. Via, devi fare il coso, fai la rotatoria di Graziella, vai per Sassari, subito a destra c'è il viottolo. Già lo so dove sì, già lo so dove. C'è il viottolo e entri dentro, fai la salita e entri dentro. Via, c'è quella salettina, se sale dentro, passi nell'officina, continui dritto e arrivi alla cabina. E lì è la strada sull'Italia, come facevamo sempre. E già così. Se la riprenda, signor Gio Maria. Eia, eia. E a che ora scendi tu? Ah, ce la vuoi tu. Adesso le 10:30, bene ti va. No, non prestano, soffre Marigini. No, io va bene, perché domani mattina devo scendere anch'io in campagna, ma alle 8, le 8 e mezza massimo sono a casa, per cui dopo posso preparare, eccetera, capito? Qua viene a prendermi, passo io a prenderti. Passo io direttamente a prenderti. Ti prendo io e scendiamo. Ok, là a cosa io? Alle 10:30 sono già pronto io. A buio allora. Bene, ti passiamo a Bacchi. A me mi va bene sempre. Te l'ho detto, sono in campagna. Sono in campagna. Dunque, non so se domani c'è l'agriturismo aperto o no. Non lo so, se l'agriturismo aperto sono in campagna lo stesso. Se chiuso, io con le patate. A mezzogiorno si parte. A mezzogiorno te ne sai, va benissimo, andava così. Mezzogiorno e un quarto, sempre quello lì, non più tardi. Cinque addosso. Così, ripeto, se da che il turismo è aperto, già sono sempre lì. Signor Marino, mi curai. Marino dice che accendeva, non ha acceso niente. Deve essere un imbuti, deve darci. Marino! Marino è sotto là, è buono con la zappa in mano, però non si incina. Lasciatelo riposare, che sa che ha lavorato troppo. Sta bruciando le frasche, sta Marino. Sta facendo il falò. Ma deve essere affaccendato, se no sarebbe entrato. È già una settimana che si fa sentire a rate, così è ancora impegnato. Ieri sera non lo sentivo, avanti ieri sera è entrato. Quando stavo chiudendo è entrato. Ieri sera Antonello è entrato, Antonello Pomponio. Marino non lo so, non l'ho sentito, se no che poi ha parlato con Marco e con Antonio. Arrivi già per l'ora di Giarra. L'ora radio, chi si può morire? Se me lo chiami bello radio. La domenica Marino penso che non lavori, no, come Bacchiso che lavora anche la domenica. Lui si riposa la domenica. Va bene, si riposi. E lui si riposa anche tra una scopata e l'altra. Parte da su, da Piazza Cosa, dalle coste, scopando sino al Duomo. Ah, e te l'hai detto? Sì, sì, mi sono fatto vedere la carriera di AUDV, dimmi. Adesso, ma cosa ci fa la rotatoia lì di fronte alla chiesa, o no? Ma non si sa, Giammarì, se fanno rotatoia o no. Se no, quegli abitanti di quella zona devono andare a girare su nella rotatoia di Gabaru e tornare indietro. Vabbè, certo, magari non posso fare tante rotatoie, no? Chiaro che. Ma la faranno lì, ti chiuderà di Graziella, di chi la rotatoia penso che la facciano o no? No, non si sa. Non si sa, perché il terreno è già asfaltato, già messo a guardarrail, sono in Gavani, no, se no sono. Ci sono due rotatorie, una attaccata all'altra. Sì, non si deve fare a giorno, ma girà. Vabbè, quando la strada è libera, per cui anche le rotatoie ci vogliono, sennò come si fa a fare il verso la marcia, no? Purtroppo è così, vai se otto. Perché se la fanno lì, vicino alla chiesa, è troppo vicino all'altra, ecco cosa è. Non va, ma mi pare che dai quanta subito, ma va. Mi pare che ti vi rotato gli hanno vennata. Sì, papà, allora va. Vedo un po' più là. Quando si decide di finirla completamente. Già è 2 anni che sta cosa che camminando, è ancora così. Già si hanno mangiato un po' che dirà da questa strada. Magna era, la strada è magna, ancora non è finita. Infatti ancora è finita, però c'era un bel pezzo, ma gliela finisco, tra 5-6 anni gliela finisco. Sì, quando bisogna rifare l'altra parte, allora finiscono l'altra, se no il lavoro termina e i soldi non ce ne sono più. No, ma chi? Quella l'altra parte perché la consegno verso febbraio-marzo. Camminano bene, almeno quei tratti, cazzo, che c'è gente un baby, è trafficata a me con la strada. Sembra così, ma le campagne ormai sono tutte abitate, per cui il traffico c'è. Il traffico c'è, anche parecchio. Tu immagina, passavo nel viottolo che andiamo a campagna, quando incrociavi macchine, un casino, si intasavano, poi quando trovi una donna, peggio che mai, accendo la spazzolarga, si può fermare, no, nella strettoria di me, e adesso torna indietro, ma ci sono buono a fare le trovarci, allora fate la buona in culo, se non vi devono. Va bene signori, dai, vi devo lasciare, per cui ne approfitto, dai. Buon proseguimento, grazie alla chiacchieratina, saluto di casa, Bacchiso e Tore, ci sentiamo domani se Dio vuole, allora. D'accordo, Tore, ci sentiamo domani mattina. Ok Giammarì, stammi bene, alle prossime, ci sentiamo domani mattina, ci sentiamo, va benissimo, ti prendi Bacchiso. Ciao Giammarì, buona serata, saluti in casa, buona carica, con tutto, a domani, ciao. Ciao Mari, che facendo? Ciao Luè, sto chiudendo, dai, mica c'è Bacchiso e Tore, dai, ciao Nulù. Ciao Giomaria, sono andato a salutare che sto facendo pure io, ciao Bacchiso, ciao a Tore, dai, buonasera, io ti ho mangiato, ciao, grazie per me. Trago Prisi, ma andate, ciao Luca, stammi bene, buona passeggiata. Forse avete parlato in due, ho mangiato un po' di pollo con le carote, olive e lumaccoli, dai, fatti un bel, ciao, buona serata, alla prossima. mia, ciao Luca, ciao, buona serata, buona passeggiata, a domani a sentirci, ciao, dove vai? Già mi avrà sentito Luca. Andate, io, signor Bacchisio, andiamo bene. Sì, andiamo male, ho capito. Tutto bene. Sì, no. La domani ha avuto giambamento. Sì, la domani è la temperatura bassa. La domani abbassa la temperatura. Sì, la di Durugu. Tanto mi devo cominciare a prepararmi un garrello io. Devo già giambare, le cose devo giambare, i mozzi. E verniciare gli ammortizzatori. È finito. E poi al collaudo e poi a polpi. Sì. Devo fare così, devo fare. Che fai a polpi tu? Io che gente non ha nome né Gavona, ma giuro che non ve ne manco una. Adesso arrivano. Adesso arrivano a terra. Da fine ottobre, da novembre come dovrebbero iniziare, quando comincia a fare un po' di freddo. E che c'è calma, e che non sia baccano, perché da lui non ci viene. Non ci viene, se no. A Platamona che li stavano prendendo l'anno scorso, ma venivano a mattini, venivano. Quest'anno sarà la stessa cosa. Adesso come ho fatto il collaudo, dopo io comincio a uscire. Infatti dopo c'ho il coso del telaio, io devo mettere un pezzo di plastica, devo mettere sopra per non andare a scindere. Ecco. Ecco, c'è quello vicino a garage, l'anno scorso, a secchi di portava. Proprio a strapazzare. Solo che non so quanti chili ne puoi prendere, lui faceva, arrivava a terra, scaricava e ritornava in acqua. Bisogna che ci sia una persona lì che ci abbia dei secchi, perché devi svuotare il secchio, metterli e appoggiare, dopo poi tu resta sci, è cosa. Perché a terra non ti controllano in acqua. Infatti, quando sei in acqua ti controllano. Come arrivi a terra, scaricare, però ci vuole sempre una persona che ci abbia la macchina lì, hai capito? È chiaro, non puoi mettere lì i secchi in spiaggia, no? Bisogna farlo sparire subito. E gli arrugli te la facciamo fare subito. Quindi, due nel gommone, uno a città in macchina e sono tre. Cosa? Un anno all'Argentiera, c'era un pescatore, no? Un abusivo. Ma sai come pescava? Come se le bombette, per esempio le bottiglie di quelli di sugo di frutta, è un liter di polvere proprio di avorio, li metteva a fuoco e lo buttava in acqua. Ma sai i pesci che salivano a galla? Un mare. Un giorno è arrivata la finanza questo qui aveva fatto già il lavoro e aveva nascosto una cosa, una bacinella di pesci sotto la barca di un altro, c'era una barca rovesciata, ce l'ha messo sotto. E noi eravamo in spiaggia lì mangiando ricci, è venuto la finanza e diceva, nulla avete visto e sentito, ah boh, non ho sentito né visto nulla. Cosa ne so io? Noi stiamo pensando a mangiare, non a sentire. Vabbè, ma certo, io ho ammazzato solo, non un pesce umano, ma proprio un pesce minore, due minori ho ammazzato. Ecco cos'è, ha distrutto un bel di cose, ha distrutto. Ah, così, tutto, umani, minori, tutto quanto distrutto. Perché dove scendeva faceva un cerchio di un metro e mezzo, pulito lo fondo. E io lo so così, lo so perché lo facciano vicino alle curve di Castelsardo, c'era chi si rappava le cose con le bombe e pescava così, ammazzava tutto quanto. Una lì arrivi dalla capitaneria, sia da terra che da mari, hanno visto, che l'hanno beccato subito. Non so quanto volo delle multe l'hanno in busto. Ce n'era uno che parlo di almeno di 30 anni fa, anche di più. Andava alla torretta, io andavo a pescare alla torretta, alla canna, e questo veniva con tutto armato di cose, di gruppo, di getta, e busciata andava via le bettarsi. Finiva un po' 2-3, passava a pulire e si avviava. Sì, alla torretta andavo chiamato una capitaneria, aveva giovato, fatto sequestrato tutto quanto e punire la multa. Certo, ma tu non puoi dare a me, io a voglio e tu mi rampi le bombette in alto a me. No, adesso te lo do io, ci chiamato la capitaneria, giù da subito. A vedere se l'hanno investigato e ho una multa per stare da più a subito. Se la sciapeneva è pericoloso, se il vino lo intendi da scosso. Da lontano l'ho sentito io, ero in acqua e l'ho sentito da lontano. So che è andato da vicino, ha detto se tocchi nuda ti faccio vedere. Infatti è giunto il capitano sia da terra che da mari. E io ero in acqua, ero. Ma che mai che se me ne facevi il dimpano? Un montone di casino fa questa roba. Purtroppo lo sono controllati e fa il rischio di volo. No, è capo per l'altra gente, altri giovani, che faccio mai si cudini, a che la neneva e di buru. E tu vieni con i bombetti e mi apri i bombetti. No. Aspetta, ha detto, chi si vuole? Giovane ha detto, ma è detto che niente di le bombetti, c'è un pallineva. No, così solo si può piccare, no, si può piccare così. A vedere se ha pagato una multa, pensate da più azzurro. Così non si può piccare, ha che distrugge tutto. Se vedo a pescare di meno vento, adesso da un centimetro, un millimetro, tutto distrutto, non ho campato nulla. E poi non solo un pesce, tutti gli animali che ci sono in circolazione lì. E infatti tutto è grande e piccolo, distrugge tutto, pensa alla rocca distrugge sotto. E la rocca muro, la base bianca la base della rocca. È brutto e certo, a fare una cosa del genere e poi mi fa esaltare pure a me ridimpare, me ne fa esaltare certo, se altri giovani uriani va pure uriani va, ma come è intervenuta la capitania, perché non l'hanno chiamato anche altri, l'hanno chiamata e sono giunti subito sia da terra che da mare. Peccato e via. Ma chi se lo voleva chiamare la capitania? Pigliato è giusto, la giusta è tutta moglie. Infatti a noi ci hanno detto a recuperare il pescato, ha detto recuperatevelo e portatevelo via, ci hanno detto. Ed è rimasta a bocca asciutta, a quel pesce che va via gli ha sequestrato la capitaneria e l'ha dato in beneficenza, l'ha dato. E noi avevamo recuperato tutto quanto l'altro. Chiaro. Non si abbruccanizzano, allora è troppo di lusso fare pigliare la roba, nuda, ma è in acciocca. Certo, ma sai, i muggini, i cosi, le salpe, e cos'è che non vira? Orate a galla, pesciare di un minore, vera. Certo, abbiamo dovuto recuperare pure questo, abbiamo dovuto recuperare. Verdone, gatto, è una cosa incredibile. Ma arruinando tutto. È così che tu di Castel Sardo. Lì alla torretta ci sono molto verdoni. Verdoni è coso, è gonzelle, è pieno. E lì è proprio pieno di gonzelle. E si viene la bomba li distrugge. Proprio non vivono più. A chi greppa. Ah, infatti, io... Quello di Castel Sardo era da mesi e mesi, venne chissà cosa, non riusciva a ciapparlo. Non riusciva niente. Ah, poi è cominciato a punire la capitaneria, si guava. E c'era i carabinieri, e aveva un bel di gozo, da poi hanno avuto. Non ci sono niente, la ciappano, solo che non si pigliano briga del caldo. Non si prendono briga, andano, la mano in busciacca, la mano in busciacca di loro. Sì, no, ma allora era i soffermati e l'hanno avuto. Adesso che ce l'hanno. La capitaneria da lontano ha dato le coordinate agli uomini per terra e l'hanno avuto subito, l'hanno avuto. Anche era dentro un ristorante, era un ristorante in Cina, si entrava dentro un ristorante. Magari non può essere un ristorante, era. Per vendia, capito, poi se vogliamo, e se lo voglio vendia. E infatti, entrava dentro un ristorante, era proprio un ristorante brucio. Allora, via da sequestrato un ristorante, è già arrabbiato. Ha fatto bene, e se ne costeggiava il male. E non so quanto ha in bolso di multa, e non penso che sia riuscito a pagarla. E la pagami, a Maragana, o paghi, o si colpemmo, e vendimmo noi. Infatti il ristorante è serrato, devo tutto è serrato. Se non c'è cuoco non possiamo più. Lo padrone ha da un altro, ha dato. Abita dopo i 2 mesi. Beh, chiaro, se così lo bloccano, pareno tutto, non si intende. Ma il fatto che ci ha messo dopo un anno ci ha messo per ripopolarsi intorno. Certo, era mesi e mesi sempre un bacendi. Distruggono. Tutto, fanno una piazza pulita. E allora, purtroppo è così. Beh, signor Bacchi, io comincio a dirgli arrivederci. Ci sentiamo domani. Ciao, buona serata, saluta la signora, buona cena, buon tutto, anche io me lo faccio incorrettire perché è durata l'ora anche per me. Ciao Tore, buona serata, a domani. Ok, a domani, Marchi, ci sentiamo.